a tua mano. Non mi spettina più, non sorridi, sembri in collera e i tuoi pensieri si travestono da stranieri e mi sfuggono. Padre mio, loro arrivano là dal buio, nelle tenebre come mostri, rossi ondeggiano affamate, ti circondano già. Lingue di fuoco. Capiscano che nel rogo muore l'albero, ma anche l'uomo e i suoi simili. Padre mio, sei ormai pallido è quel destino, così squallido fuggi il fuoco, tieni abbracciami fra i tuoi rami, presto ti salverò. Lascia accendere.